Italia in controluce. In studio Daniele Biacchesi per questa puntata di Italia in controluce, l'approfondimento del nostro giornale radio nel giorno in cui studenti e insegnanti incrociano le braccia, invadono le strade, le piazze italiane, 90 città, i motivi, i tagli previsti nella spending review, le retribuzioni degli insegnanti, gli scarsi investimenti, dicono studenti e insegnanti, nelle infrastrutture e nell'edilizia scolastica, l'innovazione della didattica, la critica dura contro il cosiddetto concorsone. Siamo collegati con il sottosegretario Marco Rossi Doria. Buongiorno a lei. Senta, i migliaia hanno sfilato quest'oggi per le strade e per le piazze italiane. Qualcuno con le carote in mano, non so se ha visto le fotografie, dicono che alcuni studenti, che le scuole e le università avrebbero visto solamente il bastone, ma che di qualche carota presentateci come fosse un regalo noi non ne abbiamo bisogno, perché tutto viene da delle frasi del ministro Profumo. Allora, queste carote, questi studenti, che cosa dice il governo? Come risponde a queste manifestazioni? Il governo e anch'io rispondiamo con la disponibilità di parlare, di incontrare, anche il ministro lo ripete, l'abbiamo fatto tante volte in queste settimane, girando per le università, per le scuole, incontrando delegazioni molte volte al mese, e quindi diciamo c'è la grande disponibilità di parlare di tutte le questioni. Per quanto riguarda la maggiore o minore spesa, che è meglio chiamare investimento nella scuola, rispetto agli ultimi 10 anni c'è stata un'inversione di tendenza, si spera che questa inversione di tendenza possa essere consolidata negli anni a venire con il miglioramento dei nostri conti pubblici. Nella legge di stabilità approvata dal governo, secondo i manifestanti, ci sarebbe una decurtazione di almeno 1 miliardo sulla scuola. Ma queste sono carte che non sono state ancora trasmesse dal governo al Parlamento. La legge viene approvata dal Parlamento e quindi a me pare che tutte queste voci che girano fin quando le carte non vengono trasmesse al Parlamento non vadano in alcun modo commentate. Cioè, possiamo dire che ancora è in fase di elaborazione? L'agenda parlamentare, diciamo, ha i suoi tempi, in questi casi io personalmente non commento, ma in genere non è bene commentare. Allora, resti con noi, le faccio sentire alcune voci che sono state raccolte da Valeria De Rosa, poi le commentiamo nei cortei di Milano. Ci saranno 25.000 precari in più quest'anno, se non ho capito bene, e per la privatizzazione della scuola, che volevano, se non ho ben capito, era quella che le scuole diventano un tipo di fondazione, che i privati possono sponsorizzarle, e quindi, non so, ottengono dei diritti sulla nostra scuola che non dovrebbe essere così. Vabbè, la scuola pubblica comunque non ha più soldi, quindi andiamo a dimostrare. Vogliamo che il diritto allo studio in Lombardia sia un vero diritto allo studio e non un modo per finanziare le scuole private. Ad oggi il diritto allo studio in Lombardia è fatto attraverso il buono scuola, che è un sistema che avvantaggia, che finisce per finanziare per l'80% di questi fondi soltanto studenti di scuole private, di cui il 70% viene da famiglie con redditi alti o medio alti, o famiglie che abitano in Bavila, Vittorio Emanuele, che dichiarano reddito zero. Quindi questo è scandaloso ed è un'ingiustizia per gli studenti. La spending review è un meccanismo che impedisce la programmazione politica e quindi della politica economica, e quindi ci troviamo completamente contrari a questo meccanismo di spending review. Non possiamo accettare che la politica non sia decisa da meccanismi democratici. Vogliamo prenderci le nostre responsabilità, ma vogliamo che quindi siamo noi a decidere come spendere i soldi nostri. L'aumento delle ore lavorative per gli insegnanti che il governo vuole introdurre. Guardi, non ho parole, non è una questione di lavorare di più, è una questione di lavorare meglio. Quindi non ho parole, cioè siamo qui a rimboccarci le maniche, io faccio più ore del dovuto, le offro ai ragazzi, amo farlo e sarei anche disposta a essere pagato come siamo pagato poco, però è proprio la struttura che non funziona, scuole fatiscenti, problemi delle strutture, le dico, la cosa più brutta sono comunque, penso, le situazioni abbandonate dei ragazzi che hanno bisogno di sostegno e di supporto. Sentendo queste voci, cosa ne pensate? 349-238-6666. Hanno ragione gli studenti, gli insegnanti, ha ragione il governo. Come le commenta, sottosegretario Marco Rossidoria? Intanto ci sono dei problemi di tutti noi, studenti, governo, quello dell'edilizia scolastica che ereditiamo da 40 anni, gli edifici che abbiamo sono per il 60% più vecchi di 40 anni, quindi un problema del sistema paese. Per quanto riguarda l'impegno grandioso, costante degli insegnanti nelle scuole, è vero, e quindi è un grande esercito civile con i quali bisogna capire che scuola faremo in futuro, ma questo è un piano del discorso molto complesso di cui discutiamo da tanto tempo. Per quanto riguarda le decisioni della regione Lombardia, il motivo della protesta va inquadrato nel fatto anche che le regioni, ognuna con la propria autonomia, decidono delle cose, per cui non è tutto deciso come era negli anni 60 dal Ministero, e che quindi poi ci sono delle decisioni che afferiscono alle autonomie locali, questo va anche detto, perché il sistema è complesso. Infine, ma oggi come... per quanto riguarda la prima questione, penso di aver capito la proposta di legge che è passata alla Camera in settima commissione, adesso va al Senato, è una proposta di governo della scuola che sostituisce i decreti delegati, voglio ricordarlo, che hanno 45 anni, e che è stato fatto con larghissima maggioranza dal Parlamento. Viene chiamata, diciamo, in causa la questione delle fondazioni, basterà guardare il testo per capire, il governo ha dato il suo parere favorevole, ma ripeto e sottolineo, iniziativa parlamentare, in quanto, diciamo, se si guarda il testo non è come è stato detto, poi naturalmente è giusto che ognuno abbia le sue opinioni. Ecco, ma oggi come allora, come lei citava i decreti delegati, io appartengo più o meno a quella generazione di ragazzi, mi ricordo molto bene, però c'è un grande desiderio, una grande forza, una grande domanda di partecipazione, questo mi sembra anche però un fatto importante. È giusta, infatti penso che questa domanda sia giusta e tra l'altro ha un carattere più drammatico che ai tempi nostri, penso che siamo della stessa generazione, perché oggi, diciamo, gli orizzonti futuri sono molto meno incerti e le certezze di appartenenza e di identità sono molto diverse e sicuramente noi consegniamo un'Italia più complicata e ancor più in mezzo a questa crisi ai nostri ragazzi, e quindi i motivi di rivendicazione, di difficoltà e anche di impegno e anche di critica che i ragazzi esprimono vanno ascoltati con grande attenzione, dobbiamo metterci in discussione. Quindi possiamo dire che il governo è disponibile ad ascoltare i ragazzi? Assolutamente sì, il governo e anche il ministro che l'ha ribadito più volte. Grazie mille al sottosegretario Marco Rossi Doria. Nel frattempo, in questo momento, a Roma una parte del corteo della scuola, quella composta in particolare dagli studenti, d'accordo con le forze dell'ordine, sta deviando verso il Ministero dell'Istruzione in Viale Trastevere, con passaggio da via Petroselli, Bocca della Verità. Il resto della manifestazione invece, la parte cioè degli insegnanti mobilitati dalla CGIL, è ormai giunto a piazza Santi Apostoli, dove si sta svolgendo il comizio finale. Manifestazioni sono state realizzate a Bologna, Torino, Genova, Milano, Firenze, Parma, Palermo, Bari, con migliaia e migliaia di persone in piazza. Ci risentiamo lunedì alla stessa ora.